Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. Introduzione di Valeria Parrella. L'educazione sentimentale è un romanzo che attraversa tutta la storia professionale di Gustave Flaubert, attraversa tutta l'epoca della sua scrittura. La lettura, la versione offerta agli ascoltatori è quella definitiva della fine del 1869, quando darà finalmente il romanzo alle stampe, verrà pubblicato in due volumi e verrà drammaticamente stroncata dalla critica. Ma in realtà la prima stesura risale a 26 anni prima. Flaubert aveva cominciato a pensare a un'idea dell'educazione sentimentale nel 1843 e cambierà molte volte in corso l'opera. Diciamo che raggiunge un'idea definitiva di ciò che voleva scrivere, perché intanto scrive altro, scrive Salambò, scrive Madame Bovary, raggiunge un'idea definitiva di quello che vuole scrivere nel 1864. Noi abbiamo una lettera a Mademoiselle de Chantepie, nella quale dice, parlando appunto dell'educazione sentimentale, è un romanzo d'amore e di passione, ma di una passione quale può esistere ai nostri giorni, cioè inattiva, dimostrando quindi che i suoi giorni e i nostri hanno molte cose in comune. E i due temi che attraversano e muovono la vita del protagonista, Frédéric Moreau si chiama il protagonista, sono in effetti due passioni inattive: la situazione politica e l'educazione sentimentale. La situazione politica diventa inattiva perché è la storia di una disillusione. Siamo nel 1848, alla fine della Seconda Repubblica, e lo stesso Flaubert, come scrittore, come uomo dei suoi tempi, e così anche il protagonista della sua opera, partecipano alla rivoluzione che vide scontrarsi gli atelier, le maestranze, quindi queste associazioni di lavoratori contro la borghesia. Sarà una rivoluzione che si consumerà tutta all'interno di Parigi e che si concluderà con un bagno di sangue, il bagno di sangue di Campo di Marte. E quindi nel protagonista, il creduto rinnovamento, la lotta creduta possibile, poi persasi, segnerà il protagonista con una vena appunto di disincanto, di dolore, appunto di inattività. L'altro tema inattivo di questo romanzo è il tema dell'amore. Per essere inattivo, un amore platonico. Flaubert nel 1836 aveva conosciuto una donna, Elisa Foucault, che sarà il grande amore della sua vita. Questa donna, in un matrimonio combinato, qualche anno dopo sposerà un altro e resterà per lui la donna, l'amore ispirante per il personaggio della signora Arnoux, che gli ascoltatori conosceranno durante la lettura. Flaubert non era bravo negli studi, era bravo nei salotti, e il suo protagonista si trova appunto più o meno nella stessa situazione. È un ragazzo borghese, giovane e anche debole, però sensibile e quindi debole, al quale occorrono amici, amanti per sentirsi vivere. Arriva a Parigi a studiare legge e si trova, invece di introdursi in un mondo accademico, si introduce in una società di metà Ottocento seducente, affascinante, così come quella che Flaubert appunto frequentava quando si trovò a Parigi, si trovò nei migliori salotti letterari. Uno dei più importanti critici dell'epoca, Sainte-Beuve, era un suo amico, un suo frequentatore quotidiano. Tutto questo viene raccontato, tutta questa vicenda di un ragazzo che arriva in un luogo e ha bisogno, si lascia scorrere la vita addosso e ha bisogno di riflettersi in amicizie, in amanti, cioè riflettersi negli altri, conoscersi e per trovare se stesso fino al giorno in cui gli capiterà una gran fortuna, ma qui non dico oltre. Tutto viene scritto nello stile, in uno stile che all'epoca fu rivoluzionario. Per la prima volta con Flaubert c'era un uso nuovo della punteggiatura che non serviva più, come era servita in passato, a dividere il senso della frase, ma era una punteggiatura di spirito. Così anche era nuovissimo l'uso dei tempi, degli imperfetti. Marcel Proust, in un saggio sullo stile di Flaubert, dice appunto che quello che Flaubert ha fatto in letteratura da un punto di vista stilistico è stata una completa rivoluzione e che lo stile del romanzo moderno da lui in poi non è mai stato lo stesso. Dice esattamente che la sua è una bellezza grammaticale che non ha niente a che vedere con la correttezza. E appunto con questa scorrettezza e con questa voglia di scoprire il mondo e se stesso, io vi lascio alla traduzione di Rabboni che sarà letta da Anna Bonaiuto. Il 15 settembre 1840, verso le 6 del mattino, il Ville de Montereau, sul punto di partire, lanciava grosse spire di fumo davanti al Quai Saint Bernard. Arrivava gente trafelata, barili, rotoli di corda, cesti di biancheria ingombravano il passaggio. I marinai non davano retta a nessuno, mentre la campana a prua non smetteva di rintoccare. Finalmente la nave partì. E le due rive cominciarono a svolgersi come due larghi nastri, trascinando via la loro processione di magazzini, fabbriche, cantieri. Un giovane di 18 anni, con i capelli lunghi, se ne stava immobile vicino al timone, tenendo un album sotto il braccio. Guardava passare nella nebbia campanili e palazzi di cui non sapeva il nome. A un tratto, con un'ultima occhiata, abbracciò l'Île Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame. Poi, mentre Parigi scompariva rapidamente, si lasciò sfuggire un gran sospiro. Superati da poco gli esami di baccelliere, Federico Moreau stava tornando a Nogent-sur-Seine, dove gli sarebbe toccato di languire per 2 mesi prima di iscriversi a legge. Sua madre l'aveva spedito alle Havre con i soldi contati per far visita a uno zio dal quale sperava che il figlio potesse ereditare. Federico ne era tornato soltanto il giorno prima e si rammaricava che non gli fosse riuscito, rincasando per la via più lunga, di fermarsi un po' nella capitale. Intanto pensava alla stanza dove sarebbe andato a vivere, al soggetto di un dramma, a dei quadri da dipingere, alle sue future passioni. Era convinto che la felicità dovuta alle sue doti spirituali fosse già in ritardo. Si mise a camminare a grandi passi sul ponte, declamando fra sé dei versi malinconici. Giunse così all'estremità del ponte dove c'era la campana, e lì, in mezzo a un gruppo di passeggeri e di marinai, vide un signore che faceva il galante con una contadina. Parlandole, non smetteva di giocherellare con la croce d'oro che le pendeva sul petto. Era un pezzo d'uomo sui 40 anni, riccio di capelli. La sua figura robusta era stipata dentro una giacchetta nera di velluto. Sulla camicia di batista brillavano 2 smeraldi e i calzoni bianchi ricadevano con ampiezza su certi vezzosi stivaletti di cuoio bulgaro, rossi, con cuciture blu. Il tipo non parve disturbato dalla presenza di Federico. Gli rivolse, girandosi, qualche strizzata d'occhio, poi offerse sigari a tutta la compagnia. Ma alla fine, visibilmente annoiato, andò a mettersi in disparte. Federico gli tenne dietro. La conversazione s'aggirò dapprima sulle diverse qualità di tabacco, poi, con assoluta naturalezza, sulle donne. Il signore in stivaletti rossi diede alcuni consigli al giovane interlocutore, esponendo teorie e raccontando degli aneddoti nei quali portava a se stesso ad esempio, il tutto con un tono fra il paterno e il corruttore e con una spassosa ingenuità. Era repubblicano, aveva viaggiato, conosceva da dentro l'ambiente teatrale, i ristoranti, i giornali, conosceva gli artisti famosi e li citava, parlandone, col nome di battesimo. Il giovane non tardò a confidargli i suoi progetti, l'altro l'incoraggiava. Federico provava per lui un istintivo rispetto e non seppe resistere al desiderio di saperne il nome. Tutto d'un fiato lo sconosciuto rispose: «Jacques Arnoux, proprietario de l'Art Industriel, Boulevard Montmartre». Un domestico col berretto gallonato d'oro venne a dirgli: «Il signore potrebbe venir giù, c'è la signorina che piange». Arnoux scomparve. L'Art Industriel era un'azienda ibrida, basata sulla pubblicazione di una rivista di pittura e sul commercio di quadri. Federico conosceva quel titolo per averlo visto parecchie volte dal libraio del suo paese su degli immensi manifesti. Il nome di Jacques Arnoux vi spiccava magistralmente. Il sole era a picco, faceva brillare le ingabbiature degli alberi, le dorature dei parapetti, la superficie dell'acqua sulla quale la prua incideva 2 solchi che andavano a spegnersi al bordo delle praterie. Ad ogni svolta del fiume tornava lo stesso tenue fondale di pioppi. La campagna era deserta. Nel cielo erano sospese delle nuvolette bianche, ferme. Sembrava che una noia vaga, diffusa, attutisse la marcia del battello e rendesse ancora più scialbe le figure dei viaggiatori. Thank you. A parte qualche borghese che viaggiava in prima classe, i passeggeri erano operai o bottegai con le mogli e i bambini. Per tornare al suo posto, Federico spinse il cancelletto della prima classe. Fu come un'apparizione. Sedeva tutta sola al centro della panchina, o almeno egli non vide altri, abbagliato dagli occhi di lei. Al suo passare, ella alzò la testa. Federico curvò distinto le spalle, poi, messosi più lontano, dalla sua stessa parte, si voltò a guardarla. Aveva un cappello di paglia, largo, con dei nastri rosa dietro che il vento faceva palpitare. I capelli neri le scendevano in lunghe bande lisce, sfiorando l'estremità dei grandi sopraccigli, come per serrare teneramente l'ovale del suo viso. La veste di mussola chiara a minuscoli pois ricadeva in fittissime pieghe. Era intenta a un lavoro di ricamo, e il profilo diritto, la linea del mento, tutta la sua figura erano incisi nel blu cielo dello sfondo. Dato che lei non mutava atteggiamento, Federico fece parecchi giri in qua e in là per dissimulare la manovra, poi venne a installarsi proprio accanto al suo parasole che era appoggiato alla panchina e fingeva di interessarsi a una scialuppa sul fiume. Mai aveva visto splendore come quello della sua pelle bruna, né grazia pari a quella dei suoi fianchi, né la dolcezza fragile delle sue dita orlate dalla luce. Contemplava il suo cestino da lavoro con meraviglia, come un oggetto straordinario. Qual era il suo nome? Qual è la sua dimora, il suo passato, la sua vita? Avrebbe voluto conoscere i mobili della sua stanza, tutti gli abiti che aveva portato, la gente che frequentava. Il desiderio di possesso fisico era come soffocato da una voglia più profonda, in una curiosità dolorosa e senza freni. Una negra con un fazzoletto in capo le venne dinanzi con una fanciulla per mano, già grandicella. Era sveglia da poco, qualche lacrima le velava gli occhi. Se la prese in grembo. Non faceva la brava la signorina, e sì che presto avrebbe avuto 7 anni, la mamma avrebbe smesso di volerle bene. Già le s'eran perdonati troppi capricci. E Federico era felice di sentire queste cose, come di una scoperta, un acquisto per lui. La pensava di origine andalusa, creola forse, che avesse portato con sé quella negra dalle isole. Un lungo scialle a strisce viola era sul bordo di rame della panchina, alle sue spalle. Chissà quante volte, in alto mare, aveva dovuto avvolgerselo intorno alla vita, posarselo sui piedi, dormirci dentro rannicchiata per difendersi dall'umidità della sera. Ma tirato giù dalle frange, ecco che scivolava a poco, stava per cadere in acqua. Federico si slanciò e lo trattenne. Ella disse: «La ringrazio, signore». I loro sguardi si incontrarono. «Sei pronta, moglie mia?» gridò il signor Arnoux facendo capolino dalla sala. La bambina gli corse incontro, gli si attaccò al collo e si mise a tirargli i baffi. Arnoux gli indicava la strada, insistendo cordialmente perché scendesse. Federico affermò che aveva appena mangiato, in effetti moriva di fame e non aveva più un soldo in tasca. Alla fine si convinse che aveva ben diritto anche lui, come chiunque altro, di trattenersi nella sala. Davanti ai tavolini rotondi, alcuni borghesi stavano facendo colazione. Un cameriere andava e veniva. Il signore e la signora Arnoux erano in fondo alla sala, sulla destra. Federico raccolse a caso un giornale e si mise a sedere sulla lunga panca di velluto. A Montereau avrebbero preso la diligenza per Chalon. Il loro viaggio in Svizzera sarebbe durato un mese. La signora rimproverò il marito per la sua debolezza verso la bambina. Dovette sussurrarle all'orecchio qualche tenerezza. Lei sorrise. Poi lui si alzò per chiudere alle sue spalle la tenda della finestra. Il soffitto basso, bianchissimo, rifletteva una luce cruda. Federico, che le stava di fronte, distingueva l'ombra delle sue ciglia. Inumidiva le labbra nel bicchiere. Spezzava una crosta di pane fra le dita. Un medaglione di lapislazzuli, che pendeva da una catenina d'oro al suo polso, risuonava a tratti, urtando l'orlo di un piatto. Eppure, tutta quella gente aveva l'aria di non accorgersi di lei. Mm. Arnoux era scontento della cucina. Ha avuto il conto, manifestò un notevole disappunto e se lo fece ridurre. Poi invitò il giovane a seguirlo verso la prua della nave per bere dei grogs. Ma Federico s'affrettò a tornare sotto la tenda dove Madame Arnoux si era ritirata di nuovo. Stava leggendo un libricino con la copertina grigia. Ogni tanto gli angoli della sua bocca si sollevavano fuggevolmente, mentre un lampo di intensa dolcezza le rischiarava la fronte. Federico provò gelosia per chi aveva inventato quelle cose che parevano destare il suo interesse. Più la guardava, più gli sembrava che si spalancassero abissi a isolarla da lui. Sentiva che presto avrebbe dovuto lasciarla per sempre, senza averle strappato una sola frase, senza lasciarle il più piccolo ricordo. La bambina, giocando, gli saltava intorno. Il giovane fece per baciarla. Quella corse a nascondersi dietro la governante. La madre la sgridò. Perché era così poco carina con quel signore che aveva salvato lo scialle della mamma? Era, poteva essere, una specie di incoraggiamento. Che stia per rivolgermi la parola, finalmente, si domandava Federico. Non c'era quasi più tempo. Come fare a farsi invitare da Arnoux? Non trovò niente di meglio che soffermarsi, parlandogli, sui colori dell'autunno, per poter aggiungere «Presto ormai è inverno, la stagione dei balli, dei pranzi!» Ma Arnoux aveva troppo da fare coi suoi bagagli. Si profilò la costa di Surville. I due ponti si facevano vicini. La nave scivolò davanti a una fabbrica di corde, poi a una fila di case basse. Federico riconobbe un uomo in panciotto e gli gridò «Spicciati!» S'era arrivati ormai. Rintracciò a fatica Arnoux tra la folla e quello, stringendogli la mano, gli rispose «Arrivederla, molto lieto!» Appena a terra, Federico si voltò. Era ritta accanto al timone. La fissò, cercando di mettere tutta l'anima in quello sguardo. Lei restò immobile, come se non si fosse accorta di nulla. Poi, senza far caso ai saluti del domestico, gli gridò «Ma perché non sei venuto fin qui con la carrozza?» Il pover'uomo si scusava. «Sei un disgraziato, dammi dei soldi!» E se ne andò a mangiare in una locanda. Un quarto d'ora dopo fu tentato di entrare come per caso nel cortile delle dirigenze. Forse l'avrebbe vista ancora una volta. «A che serve?» si disse. E la carrozza lo portò via. Tutto il suo viaggio gli tornò alla memoria in modo così netto da fargli scorgere ora dettagli non visti prima, particolari più intimi. Sotto l'ultima balza della gonna sporgeva il suo piede in una scarpina di seta marrone. Sopra il suo capo la tela grezza della tenda formava un largo baldacchino e i fiocchetti rossi dell'orlo tremavano alla brezza senza fine. Era come le donne dei libri romantici. Non c'era nulla da aggiungere, nulla da togliere alla sua persona. Di colpo l'universo s'era ingrandito. Era lei il punto luminoso verso il quale convergevano tutte le cose. Cullato dal rullio della vettura, le palpebre socchiuse, lo sguardo sperduto fra le nuvole, Federico si abbandonava a una gioia sognante e infinita. A Bré non aspettò che avessero dato la vena ai cavalli, ma proseguì tutto solo nella strada. Arnoux l'aveva chiamata Marie. Egli gridò forte «Marie!» La sua voce si perdette nell'aria. Thank you.